Tanto è tardi qui a casa mia, lei non viene più. È un Natale da buttare via, lei non viene più. Guardo il telefono e penso a lei, vetri appannati sugli occhi miei. La neve sta venendo giù, chi la fermerà? La candela è ancora accesa, presto si consumerà. Dio, tu stai nascendo e voglio io. Che faresti al posto mio, ora che perdo pure lei, ho dato un calcio ai sogni miei. Dio, ma che Natale è questo mio, campane a festa anche per me, anche per me, anche per me. Se tu mi senti, ma perché non fai tornare chi non c'è?